Respiro. Buongiorno gentili ascoltatrici e ascoltatori, ben arrivati a Respiro. Io sono Cristina Carpinelli, puntata quasi interamente occupata dalle rinnovabili. La prima notizia ci porta a Siviglia, la città che si avvia ad essere una delle capitali del solare. È stata infatti inaugurata proprio in questi giorni una centrale solare che è in grado di illuminare 10.000 edifici e di ridurre ovviamente 12.000 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno. Una torre solare, la più grande al mondo, che sorge accanto a un'altra grande torre e quindi si dà vita al primo insediamento spagnolo di solare, di fotovoltaico, di eolico e di tutto ciò che è energia rinnovabile. Si è parlato nell'ambito dell'Energy Summit che si è svolto la scorsa settimana a Milano, molti gli imprenditori presenti e testimoni di questa rivoluzione energetica in corso che, come vedremo proprio tra poco, coinvolge sempre più le piccole e medie imprese. E numerose ovviamente sono anche le imprese che con le rinnovabili fanno profitto, stanno andando così bene che è forse uno dei pochi settori in cui si continua ad assumere. Questo quanto ci ha raccontato Giorgio Pucci, vicepresidente di Enercos, una società nata 3 anni fa con l'idea di produrre fotovoltaico e che oggi esporta le sue conoscenze e ovviamente i suoi prodotti anche in Grecia, Francia e Turchia. Enercos è un'azienda che è stata fondata 3 anni fa, quindi a ottobre faremo 3 anni. Ed è un'azienda che si occupa di energie rinnovabili attraverso il fotovoltaico. L'azienda si occupa attraverso la capogruppo, la Enercos SPA, di grandi impianti e attraverso un gruppo di aziende di proprietà nostra, più piccole, di impianti più piccoli, dedicati all'industria, alla media industria e anche all'abitativo. Classica azienda di installazione e progettazione sul fotovoltaico, si è mossa molto rapidamente negli ultimi 3 anni, essendo nata alla fine del 2006. Il primo anno di attività è stata il 2007 con 5 milioni di ricavi e l'anno dopo, nel 2008, 31 milioni di ricavi. Quest'anno pensiamo almeno di raddoppiare questa cifra. Quindi l'azienda si sta muovendo rapidamente, il mercato c'è e stiamo andando piuttosto bene. Ecco, che tipo di clienti avete? Cioè, avete il piccolo, il grande? Qual è il vostro target? Allora, direttamente ci occupiamo dei grandi impianti fotovoltaici, delle vere e proprie centrali elettriche fatte con il sole. Quindi sono impianti che vanno da 900 kW, 1 MW, fino a 2, 3, 4, 5 MW. Queste vengono fatte principalmente, per ora, nel sud Italia. Poi, invece, con le nostre consociate ci occupiamo anche di impianti che vanno tra i 20 e i 100 kW, quindi la media impresa, che sta dando dei successi incredibili per installazioni su tetti industriali. Ecco, lei come vicepresidente di questa società che ci ha detto proprio attraverso i numeri sta crescendo in maniera esponenziale, ha l'impressione che la piccola e media impresa in qualche modo stia andando un po' più veloce di quanto sta facendo invece l'istituzione, quindi l'Italia in generale? Questo è assolutamente vero, ma è vero non soltanto per il fotovoltaico. Per un ingegnere che ha fatto tutta la vita nel mondo industriale come me, precedentemente sono stato presidente del gruppo Bull, presidente della Nokia Italia e così via. Queste cose qua le ho già viste, cioè è una storia che si ripete. Le aziende medie o medio-grandi in Italia si muovono molto più velocemente delle istituzioni. Non è una sorpresa questa. Ma perché si rivolgono al fotovoltaico? Per questioni ambientaliste o perché ha un senso reale, cioè economico? Buona domanda. C'è sicuramente quello che si chiama un mood positivo, nel senso di... basta pensare, insomma, qui in Lombardia in modo particolare, no? Cioè, si pensi un attimo al riciclaggio, la carta, l'umido, la plastica e così via. Quindi questa è ormai un sentimento positivo che copre tutta la popolazione. Dall'altra parte, ovviamente, il fotovoltaico è un plus per le aziende, perché possono utilizzare il sole per produrre la propria energia elettrica, e si sa che in Italia uno dei problemi per l'industria è il costo dell'energia. Quindi questo è positivo in questo senso. Ecco, non so se ha voglia di entrare nel merito, sicuramente si parlerà anche nel corso dei prossimi anni di nucleare. Adesso per esempio leggevo che la Merkel avrà sicuramente intenzione di affrontare nuovamente questo capitolo e tornare probabilmente al nucleare. Lei cosa ne pensa? No, io penso che tutte le fonti di energia vanno bene. Vanno tanto più bene quanto sono localizzate. E noi sappiamo che in questo momento il nostro paese è altamente dipendente dal gas, il carbone, il petrolio e così via. Quindi tutte le energie che in modi di produrre energia che non sono di questo tipo vanno bene. Quindi io non sono assolutamente contrario al nucleare. E una delle energie, il fotovoltaico, ricordiamoci, per un paese che ha l'esposizione dell'Italia è sicuramente un asset rispetto ai paesi del nord Europa, per esempio. Questo vale anche per l'eolico, no? Se uno va in Danimarca o in Scozia si renderà conto quante pale eoliche ci sono. Non capisco perché in Italia, dove abbiamo anche, è vero che abbiamo anche molti posti belli dove non si devono snaturare le bellezze del nostro paese, ma abbiamo anche tanti posti assolutamente desolati e aridi dove si può mettere il fotovoltaico e fare delle vere e proprie centrali elettriche di fotovoltaico che porterebbero un grande beneficio economico alla nazione. Senta, in questo periodo di crisi lei ci ha dato attraverso questa intervista un dato incoraggiante in qualche modo. Il primo è che comunque se si fanno degli investimenti pare che si facciano indirizzati verso energie rinnovabili, parliamo delle piccole e medie imprese che se lo possono permettere a questo punto. E l'altro, che non ha ancora detto, ma lo anticipo io, è che l'azienda, la sua azienda, sta andando così bene che si sta preparando ad assumere. No, noi abbiamo già assunto un sacco di persone, quindi non è che ci prepariamo, continuiamo. Tenete conto che essendo nati nella fine del 2006 abbiamo ormai più di 100 persone a bordo, sono tutti persone di alto livello, quindi tutti laureati, e abbiamo creato proprio un nuovo tipo di fare industria e noi pensiamo che questo si svilupperà ancora per molti anni. Quindi ci sono delle opportunità, anche perché questa è alta tecnologia. Noi non possiamo pensare nel nostro paese di risolvere i problemi occupazionali o anche intellettuali rimettendoci a fare le cose come negli anni 70-80. Impossibile. Quei treni li abbiamo persi, ma non solo noi, la Francia, la Germania e così via. Mentre sull'alta tecnologia c'è un sacco di spazio ancora e noi lo cavalchiamo, dobbiamo cavalcarlo. Il fotovoltaico è uno di quelli. Voi lavorate in Germania, siete operativi anche a livello europeo? Siamo operativi in altri tre paesi europei che sono la Francia, la Grecia e più recentemente la Turchia. Quindi esportate comunque, avete sì. Delle imprese che stanno rivolgendosi a voi. Sì. Come è stato in questi tre anni lavorare in Italia? Ci sono stati dei punti, come dire, di forza e dei paletti? Quali sono state le difficoltà che avete incontrato come azienda? Ancora una volta, c'è un sentimento che sta cambiando, quindi anche a livello amministrativo e governativo. Diciamo che in Italia tutto ciò che è nuovo ogni tanto spaventa e quindi qualche paletto l'abbiamo trovato. L'importante è poter scavalcare il paletto, saltarlo, girarci intorno. E vedo che negli ultimi 5-6 mesi l'amministrazione pubblica, anche il governo, sta operando in maniera corretta. Quindi insomma, la solita burocrazia italiana, ma ce l'abbiamo da 150 anni ormai. Quindi però voi essendo molto forti, diciamo, in crescita, state riuscendo a superare anche questi ostacoli? Sì, con difficoltà, non le dico che sono tutte rose o fiori, no? Per avere un'autorizzazione a fare un campo fotovoltaico o anche un tetto fotovoltaico qualche volta c'è da piangere. Tenete conto che in Germania per avere un'autorizzazione ci vuole dai 7 ai 10 giorni, in Italia ci vuole dai 4 ai 5 mesi. In chiusura di questa prima parte parliamo di lampadine a basso consumo. Lo sapete che non vanno buttate via assieme al vetro, ci sono dei contenitori apposta dislocati nel caso di Milano e 92 centri di raccolta, questo solo per Milano, ma ovviamente li trovate su tutto il territorio nazionale se vi informate. Facciamoci spiegare tutto da Fabrizio D'Amico, che è direttore generale di Ecolamp. Ecolamp è il consorzio che è stato istituito nel 2004 dai produttori di lampade. I più importanti, parlo di Philips, di Osram, di IGE, di Leuci, di Silvania e di Filometalli, che i più importanti nel paese e anche in Europa, esattamente per raccogliere le lampade a fine vita che terminano, diciamo così, il loro lavoro e che devono essere, come abbiamo detto, raccolte correttamente. Quindi il nostro impegno unico, principale e primario è raccogliere lampade in tutta Italia. Non siamo qui per fare affari o per lucrare da queste attività. Sono operazioni industriali che vengono finanziate, tengo a dire, dai cittadini nel momento in cui, e dai consumatori evidentemente, nel momento in cui comprano una lampada e si pagano l'ecocontributo che poi il produttore gira al consorzio Ecolamp esattamente per queste operazioni di raccolta e trattamento delle lampade. Quando siete nati? Nel 2004. Quindi è recente, diciamo, questa società, questo consorzio? Sì, il consorzio, sì, ha passato i primi anni della sua esistenza ad aspettare che anche in Italia entrasse in vigore la normativa sulla raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che come sapete è stata voluta dalla Unione Europea, che ha prodotto delle direttive che poi gli Stati membri hanno raccolto, hanno adottato, recepito nei rispettivi ordinamenti nazionali. L'Italia lo ha fatto a partire dal 2005, ma la raccolta reale è iniziata ed è partita nelle isole ecologiche da novembre del 2007. Quindi i primi anni per Ecolamp, così come per tutti gli altri consorzi che oggi si occupano di RAE, sono stati impiegati per dotarsi di attrezzature consistenti, per esempio i 6.000 cassonetti che ad oggi abbiamo disseminato in 2.000-2.300 isole ecologiche italiane e che sono cassonetti che si usano per la raccolta di queste lampade. Ecco, ma per capire bene, voi cosa fate? Quindi andate, prendete queste lampade esauste e poi qual è lo scopo, diciamo, di Ecolamp? L'ha detto. Noi ogni volta che uno di questi cassonetti è saturo e pieno di lampade, riceviamo una chiamata e usciamo per una missione di raccolta con i nostri trasportatori. I trasportatori raccolgono il cassonetto dall'isola ecologica, lasciano, dopo aver ritirato il pieno, un cassonetto vuoto, tornano indietro e ad un certo momento, dopo aver raccolto un numero di cassonetti consistente che ripaghi un viaggio, si mettono in cammino per andare ai centri di trattamento che lavorano sempre con Ecolamp per smaltire queste lampade. E come vengono smaltite? Usano una tecnologia che si chiama di triturazione e di taglio delle estremità, per cui c'è una macchina che ha grosso modo le dimensioni di un camper, basta una sola persona, un solo addetto per lavorarci accanto, e queste macchine possono tagliare, triturare e sminuzzare il ferro che compone le lampade e poi recuperare sia le componenti ferrose e non ferrose, sia infine le polveri di mercurio che, come abbiamo detto, costituiscono un po' il problema ambientale di queste lampade. Ecco, il mercurio poi viene, diciamo, trattato come rifiuto tossico? Sì, esatto, viene trattato e viene stoccato separatamente, quindi è tutto in sicurezza, norma di legge e di autorizzazione richiesta. Ecolamp lavora su tutta Italia. Sì. Qual è la situazione dal suo osservatorio? Sì, guardi, i numeri sono molto chiari. Premesso che alla fine del 2008 avevamo raccolto 160 tonnellate di lampade e che ad oggi, in momento in cui stiamo parlando, siamo a circa 600, siamo oggi al 29 di settembre, la previsione, forse ottimistica, è di chiudere l'anno con circa 1000 tonnellate di raccolto. Quindi è veramente un boom e siamo estremamente soddisfatti della risposta che c'è sia dalle famiglie che frequentano le isole ecologiche, sia anche dalle categorie professionali degli installatori luminotecnici che, come potete immaginare, conferiscono la gran parte di questi rifiuti. Stimiamo che l'anno prossimo possa andare ancora meglio, naturalmente. Ovviamente ci sono delle differenze nei tassi di raccolta tra le diverse aree del paese. Al nord raccogliamo di più, al centro un po' meno, al sud purtroppo io oso dire che c'è ancora molta strada da fare. Respiro. Yes, my name is Vetli Sukani Machebele, is my surname. Mi chiamo Vetli Machebele e vengo dalla comunità Makulele. Vivevo in Sudafrica, all'interno del Kruger Regional Park. Ho tre figli che oggi sono abbastanza grandi. Nel 1969 siamo stati allontanati dalla nostra terra, c'era l'apartheid. Tutta la mia gente è stata costretta a lasciare le case, siamo stati espropriati della terra. Eravamo più di 3.000 persone, 8 villaggi. Per anni abbiamo aspettato di poter rientrare. Siamo ritornati nella nostra terra nel 1994 e abbiamo potuto riappropriarcene attraverso il lavoro dell'ecoturismo e attraverso la cura e la conservazione del parco e dell'ambiente. Oggi che siamo capaci di lavorare con l'esterno attraverso la cura della nostra terra, siamo sicuri di poter dare ai nostri figli una terra che darà loro un futuro. Io sono sicura che noi stiamo costruendo un progetto di sviluppo grazie alla tutela del parco che garantirà il futuro ai nostri figli. In the concession agreement, there are some percentage that we get as a benefit to the country for the future development of our area where we live now. Hey. E questa che avete sentito è la storia che vogliamo raccontarvi ora, perché lo abbiamo visto anche nel corso di questi ultimi anni. Per ora chi sta pagando il prezzo più pesante dei cambiamenti climatici è la gente di quel cosiddetto mondo in via di sviluppo. La storia di Vet Lee che avete sentito ci dice invece una cosa diversa, cioè che se si investe seriamente sull'ambiente, sui parchi in questo caso, si fa bene non solo alle comunità locali, all'ambiente ovviamente, ma si fa soprattutto profitto e ci si ritrova a dover fronteggiare meno emergenze di quanto accada quando disboschiamo, distruggiamo, desertifichiamo, insomma. È un concetto molto semplice che piano piano sta entrando nella testa di molti. Per questo a Bergamo lunedì si tiene una sorta di processo al parco. La domanda è: polmoni verdi o ostacolo allo sviluppo? È ovvio che la risposta la conosciamo, è quasi una domanda retorica, ce l'ha appena data Vaclima Cebele. Resta il fatto che su questo argomento di cose da dire ce ne sono ancora molte. Il processo al parco è un'iniziativa organizzata da CESVI, CESVI è una ONG, e questa iniziativa è all'interno di Bergamo Scienza, che va avanti fino al 18 di ottobre, quindi andate a vedere quali sono gli appuntamenti che possono interessarvi. Ovviamente noi stiamo parlando di parchi, di processo al parco, che è un gioco, ma il tema è molto serio, come ci ha spiegato Lilena Albani di CESVI, appunto. Il processo al parco è un'occasione per poter parlare a tutto il pubblico che sarà presente di un tema complesso che è quello dello sviluppo sostenibile. Il processo ha l'obiettivo di sensibilizzare ed educare alle tematiche ambientali in un modo diverso, quindi non è una conferenza, non è un convegno, ma è un processo. Ci sarà un'accusa, una difesa e dei testimoni che racconteranno come sia possibile vivere oggi, in un momento storico abbastanza complesso, in armonia con l'ambiente. Oggi la difficoltà sta proprio nell'individuare il giusto equilibrio tra i bisogni dell'uomo, che sono di un progresso economico e tecnologico continuo, ma anche la protezione e la conservazione ambientale. Ecco, voi in quale parte del mondo come CESVI siete operativi e quali sono i progetti su cui state lavorando quando si parla di parchi, quindi di tutela ambientale? Noi lavoriamo essenzialmente in tre aree del mondo, che sono l'area amazzonica, prevalentemente in Perù con Bolivia e Brasile, la parte himalayana, Nepal, Pakistan, ma soprattutto da molti anni, dal 1999, lavoriamo nel parco transfrontaliero del Gran Limpopo, che è un parco transfrontaliero, quindi che unisce Zimbabwe, Mozambico e Sudafrica. Ecco, in questi progetti, alcuni tra l'altro io anni fa sono stata proprio a vedere uno dei vostri progetti nella foresta amazzonica peruviana e devo dire che molte delle cose che fate apparentemente piccole in realtà danno sostegno e aiuto a popolazioni locali che hanno un ottimo rapporto con la natura se lasciate in pace. Esattamente. Allora, e questa è la domanda, dal tuo osservatorio, quanta coscienza ambientale c'è nei paesi in via di sviluppo? È una domanda complessa, questo assolutamente. Quello che ti posso dire è che ci sono delle aree mondiali dove questa coscienza è più forte, per esempio in Africa. Ed è una testimonianza viva proprio il progetto che portiamo avanti nell'Impopo, perché i parchi che vengono gestiti nell'Africa australe, in questo caso in Africa, Mozambico e Zimbabwe, ormai sono diventate parte integrante dell'economia di questi paesi, cioè si è compreso sia i governi che le popolazioni che salvaguardare l'ecosistema, quindi proteggere la natura, gli animali e le comunità che ci vivono o dentro o ai confini è fondamentale per l'economia, soprattutto l'indotto dell'industria turistica. Quindi questa cosa può essere un incentivo a mantenere in forma i parchi, secondo lei, secondo te? Assolutamente, assolutamente sì, perché si è sviluppato nel tempo una consapevolezza nuova di tipo politico e di tipo economico. Quando nel 2000 i governi dello Zimbabwe, del Mozambico e dell'Africa si sono incontrati per formalizzare la nascita del parco transfrontaliero del Gran Limpopo, è stata data vita a un'era nuova, perché questi paesi sono incontrati, questi governi hanno discusso, trattato e hanno dato vita a un qualcosa che prima non c'era, un'opportunità straordinaria, umana, naturale, naturalistica, ma anche economica, perché le opportunità di scambio tra le persone e le comunità è un'ottima cosa per il turismo. Questa è, secondo me, un'ottima chiave di lettura e di interpretazione del periodo che stiamo vivendo, anche se a volte un po' sconfortante, però di fatto la notizia è che gli uomini, quando ci sono di mezzo i soldi, guarda caso, proteggono anche la natura, no? Molto più di quanto non si sia fatto in passato, quando non c'era questa coscienza. Però nel caso, per esempio, della foresta amazzonica, non è poi così vero, no, questo? Ma infatti quello che si diceva è che non si può parlare di una coscienza ambientale in senso generale, molto dipende dal contesto in cui si sta lavorando, per cui diversa è l'Amazzonia, come diverso può essere l'Impopo o la zona himalayana, diverso perché diversi sono i paesi, diversi sono i governi e diverso anche perché è diversa la storia che quei paesi hanno vissuto. Bisogna tenere conto che questi parchi transfrontalieri, soprattutto in Africa, hanno anche una funzione politica di pacificazione, vengono chiamati parchi della pace. Non per caso, parliamo di paesi che hanno vissuto l'apartheid, paesi che non hanno mai dialogato fino a 10-15 anni fa. Questo ha un significato molto importante, per cui anche la coscienza che si sta sviluppando, per esempio in Africa, è diversa dalla realtà dell'Amazzonia o della realtà himalayana, per cui è chiaro che non si può generalizzare, ma è importante analizzare contesto per contesto e capire qual è la storia che il singolo paese o i singoli paesi coinvolti hanno vissuto. Se volete partecipare a questa iniziativa potete andare lunedì 5 ottobre alle 17 presso l'aula della Corte d'Assise del Tribunale Penale di Bergamo e con questo vi saluto e vi ringrazio intanto per averci seguito. Vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. Ci sentiamo come sempre sabato prossimo dalle 16.30 alle 17, domenica in replica alle 14. Grazie ancora per essere stati con noi. Un saluto da Cristina Carpinelli. We'll be right back.